Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Che cosa raccontano oggi le marche, i brand vincenti sul mercato? Quali trasformazioni delle nostre abitudini di vita e di consumo? Lo rivela la classifica che ogni anno mette in fila i 100 brand a maggior valore economico al mondo e che anche quest'anno ci riserva conferme, smentite e qualche sorpresa. Della riscoperta e della forza del fumetto abbiamo parlato più volte. Oggi vi raccontiamo il debutto di una nuova serie firmata Sergio Bonelli, la storica casa editrice italiana, quella di Tex e di Landog, per citare solo due tra le serie più famose. E poi sapete che cosa succede se applichiamo le arti marziali ai social network? Otteniamo corsi di autodifesa digitale per combattere il cyberbullismo. Spazio infine alle tendenze nella comunicazione e nel marketing. Oggi parliamo della comunicazione convocativa, quando la prima persona singolare fa la differenza. E se il computer fosse un bellissimo oggetto? Qualcosa che hai voglia di guardare, di avere in casa? E se, invece di essere solo nelle mani giuste, fosse alla portata di tutti? Sarebbe il più grande sconvolgimento tellurico dello status quo da sempre. Tutti stanno aspettando il Mac. Che ci farà la gente? È un quadro astratto. Ci farà questo. Nick, ci sono. Google. Ci hai trovato un lavoro a Google? Beh, non un lavoro, è un colloquio per uno stage che poi potrebbe portare a un lavoro. Benvenuti a Google. Il 5% di voi troverà un lavoro a tempo pieno. Il restante 95% si attacca. Apple e Google, i brand simbolo della rivoluzione digitale, i brand più potenti al mondo, a maggior valore economico, secondo l'annuale classifica firmata Interbrand, giunta quest'anno alla sua 16ª edizione. Per il terzo anno consecutivo Apple e Google si confermano ai vertici della Best Global Brands, rispettivamente al primo e secondo posto, con un valore di oltre 170 miliardi di dollari. Apple cresce di oltre il 40%, Google del 12% per un valore di circa 120 miliardi di dollari. A completare il podio c'è Coca-Cola a quota 78 miliardi di dollari. Nella classifica la trovate completa sulla nostra pagina Facebook. Tra le prime 10 pensate figurano ben 6 compagnie high-tech e i brand tecnologici coprono più di un terzo del valore totale. Ma tra le new entries, nell'epoca dei videogiochi e dell'intrattenimento digitale, c'è spazio per una grande sorpresa: Lego. Manfredi Ricca, Interbrand Italia. Nessuna sorpresa quest'anno per quanto riguarda il podio, dove qui domina è Apple, seguita da Google e Coca-Cola, quindi vediamo di nuovo come due brand che appartengono alla nuova generazione tecnologica sono in grado di creare un valore economico sproporzionato e di dimensioni tali per cui non si parla più di un valore aziendale ma quasi di un valore macroeconomico. È interessante notare come Coca-Cola, che è un brand che ha invece una promessa che risale più indietro nel tempo, sia comunque in grado di restare rilevante, e questa è la sfida per molti brand che vengono da altre generazioni. Un altro esempio di questo modo di restare contemporanei è Lego, che è uno dei nuovi ingressi, che è sempre la stessa Lego ma che riesce oggi a creare valore creando un'esperienza che è rilevante per le nuove generazioni e che oggi quindi è quasi meno una società che produce giocattoli ed è più una vera e propria entertainment company. A proposito dei nuovi ingressi, voi sottolineate anche Lenovo come secondo brand cinese in classifica. Anche questo racconta insomma dei cambiamenti, di equilibri nell'economia mondiale. Sì, tutti siamo abituati a parlare della Cina come di una potenza industriale, meno se ne parla invece in termini di brand. È evidente che è lì che la Cina ha delle maggiori opportunità di sviluppo economico. I brand oggi sono senza dubbio la nuova ricchezza delle nazioni, perché laddove ci sono dei brand globali c'è un'attrazione di investimento, c'è un'attrazione di talento, c'è un'attrazione di ricerca e sviluppo e di innovazione e quindi in definitiva di valore economico. L'anno scorso era entrata Huawei, non è un caso che la Cina abbia iniziato dal settore che è geograficamente agnostico per eccellenza, vale a dire la tecnologia. La flessione di Volkswagen che vedo in classifica tiene conto dello scandalo? Sì, ne tiene conto per quanto sia uno scandalo molto recente. Ovviamente è uno scandalo tale per cui il brand non può che uscirne indebolito. Tuttavia, credo valga la pena vedere la cosa sotto un altro aspetto, cioè la storia insegna che quando ci sono questi scandali, l'impatto ultimo e definitivo di questi scandali è dato dal modo in cui l'organizzazione reagisce. Quanto più reagisce rapidamente e con trasparenza, tanto minore è l'impatto dello scandalo. Da questo punto di vista Volkswagen ha operato molto bene. Questo è l'atteggiamento che permette di mitigare quelli che sono gli impatti di questi scandali. Non mi stupirei se vedessimo crescere di nuovo a breve Volkswagen, così come Toyota e Nike hanno ripreso un percorso di crescita relativamente rapidamente dopo gli scandali che le hanno interessate. Se volessimo trovare un filo rosso, una riflessione comune per i vincitori, che cosa potremmo dire? Vince chi? Chi va alla velocità della vita. La tecnologia oggi, da un lato, sta ampliando quelle che sono le opportunità di innovazione per le aziende, ma dall'altro lato sta rendendo i consumatori e le persone sempre più esigenti. Vince chi è veramente in grado di muoversi alla velocità della vita delle persone, brand che hanno capito come sia importante allinearsi a quelle che sono delle aspettative, che vedono la necessità o comunque l'opportunità di essere presenti nella vita della clientela nel momento giusto, nel luogo giusto, in tempo reale. Il trailer, lo sentite in sottofondo, lo trovate sulla nostra pagina Facebook, evoca le atmosfere da action thriller. Un po' di palpa alla Tarantino, un po' di brivido alla Dario Argento, passando per l'antagonismo di serie TV come Breaking Bad. Parliamo di Morgan Lost, la nuova serie a fumetti della Sergio Bonelli Editore, firmata da Claudio Chiaverotti, già sceneggiatore di Dylan Dog e creatore di Brandon. Sarà in edicola il prossimo 20 ottobre, ce la siamo fatta raccontare dallo stesso Chiaverotti. Morgan Lost è un action thriller permeato di soprannaturale talvolta, non in tutte le storie ma in parecchie. È un protagonista che ha una maschera tatuata sul volto, è daltonico, cioè vede la realtà in sfumatura di grigio e sfumatura di rosso, ed è lo stesso modo in cui la vedranno i lettori, cioè Morgan Lost introduce anche un'importantissima, a mio parere, novità grafica nella pagina bonelliana, cioè sarà stampato, sarà pubblicato, arriverà nelle edicole in sfumatura di grigio e sprazzi di rosso. La tua ispirazione? Viene dalla mia passione per il thriller, in quanto proprio meccanismo narrativo, perché se fatto bene ti coinvolge tantissimo, no? Cioè ti inchioda alla poltrona, alla sedia, e non ti alzi finché non viene risolto il mistero. Viene anche dalla mia passione per il cinema in generale, che poi ho messo parecchio in Morgan Lost. Mi piaceva proprio l'idea di mostrare una persona come noi che per forza di cose poi si avventura nell'oscurità, nel buio dell'animo umano, del suo e anche di quello delle persone che poi lui va a cercare, persone o non persone, dipende poi dalle storie, no? Però fondamentalmente è una persona come noi. Mi sono rivolto un po' a chi come me magari si va a comprare, va i libri oppure va al cinema a vedere i thriller, ma in generale secondo me anche dagli appassionati di cinema, perché poi si troverà moltissimo cinema, moltissime citazioni cinematografiche, quindi diciamo per una fascia di pubblico abbastanza ampia e anche per quelli che magari nel fumetto stanno cercando qualche emozione particolare, al di là del fatto che ho cercato di fare delle storie dure, serrate, cioè che non ti mollano mai, perché questo deve essere, no, un fumetto che ti prende, così come un film quando ti prende bene, ma comunque secondo me queste sfumature di grigio e sfumatura di rosso danno assolutamente un'atmosfera particolare. sapete che cos'è lo Zanshin Tech? È un'arte marziale digitale, sì, avete capito bene, ma non ha a che fare con i videogame. Serve a difendersi dal cyberbullismo, il bullismo via web. L'idea arriva dalla Liguria, geniale e preziosa per gli adolescenti. Ve la raccontiamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presento Essere e Avere. Tu sei solo un grosso lardoso panda. Non sono un grosso lardoso panda. Sono il grosso lardoso panda. La presa del dito Buxi. Oh, conosci questa presa? Stai bluffando, stai bluffando. Shifu, non te l'hai insegnata? No, l'ho immaginata. Scadush. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with le arti marziali ai social network. Nasce da questa intuizione Zanshin Tech, una vera e propria arte marziale digitale. In pratica un corso di autodifesa digitale per combattere il cyberbullismo. La parola Zanshin in giapponese indica lo stato di allerta che precede il combattimento. Attraverso gli schemi e le dinamiche tradizionali delle arti marziali, ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 15 anni, e questa la fascia più a rischio, vengono educati ad un uso responsabile della tecnologia e soprattutto vengono messi nelle condizioni di usare strumenti di autoprotezione in rete, vere e proprie contromosse per riconoscere il bullismo o anche l'adescamento online e imparare a difendersi, così da diventare guerrieri digitali. Questo è il nome che viene dato agli allievi. L'idea unica al mondo arriva da Genova, da Claudio Canavese. Ecco come ce l'ha raccontata. Lo Zanshin Tech è una arte marziale digitale, è un percorso che mira a portare le persone dagli 11 anni in su, ma va bene anche per gli adulti, a sviluppare una attenzione, una vigilanza durante l'uso delle tecnologie e a gestire quello che è il conflitto tecnomediato. Quindi è un'arte marziale che però si muove nell'ambito del mondo digitale invece che del mondo fisico. I nostri ragazzi vengono a lezione fisicamente, montano i PC che gli serviranno per la lezione, che è un esercizio di riscaldamento e serve per staccare la mente da quello che si faceva prima. Sono tutti elementi tradizionali delle arti marziali che noi abbiamo importato perché funzionano. Le arti marziali l'abbiamo scelto come metodo proprio perché le arti marziali cambiano la testa alle persone, formano un metodo di pensare. Dopodiché si analizzano quelli che sono i casi reali di cyberbullismo, i ragazzi stessi fanno la timeline e smontano un caso, smontandolo lo comprendono e identificano quelle che sono le tecniche usate per aggredire una persona, perché abbiamo scoperto smontando il cyberbullismo che le tecniche sono poi sempre le stesse, ci sono 10-12 tecniche che valgono sia per il cyberbullismo che per gli adescamenti, addirittura negli adulti anche per le truffe online e per altri tipi di aggressioni, e una volta imparato a riconoscere queste tecniche si può imparare a gestirle e a fermarle con contromosse adeguate. Citiamo alcune di queste contromosse. Una delle contromosse più efficaci, anche se può sembrare molto semplice, è la regola del triangolo. Noi diciamo ai nostri ragazzi: se conoscete qualcuno online, trovate due persone di cui vi fidate e teneteli sempre aggiornati su quello che vi dite. Un'altra contromossa vera, effettiva, che serve non in maniera preventiva ma proprio di contrasto ad alcune tecniche di aggressione è l'azzeramento, quindi l'azzeramento di ogni tipo di comunicazione senza bloccare l'altra persona, senza fargli capire che lo sto bloccando, ed è molto utile in certi tipi di aggressione contro certe tecniche specifiche, e abbiamo potuto constatare sul campo che nel giro di 2 settimane è in grado di fermare un'aggressione anche molto violenta, perché ci sono sono stati dei casi in cui siamo già intervenuti. Il bello è che sono stati i ragazzi a bloccarli. C'è stato il caso di una ragazza che era sotto attacco da 2 mesi, un attacco molto violento, e applicando la tecnica dell'azzeramento e una serie di altre tecniche ha fermato l'aggressore nel giro di 2 settimane e non si è mai più presentato. Dalle arti marziali voi importate anche i livelli, quindi i colori, in questo caso, se non sbaglio, applicati ai bracciali al posto delle cinture. I bracciali sono poi derivati dal mondo militare del survival, sono i bracciali cobra fatti in cordino da paracadute, e i colori, con l'esclusione del bianco e del nero, che non possono mancare in un'arte marziale, sono presi dai colori dei fili all'interno del cavo di rete. La cosa carina è che dal secondo livello in poi gli stessi ragazzi iniziano a fare quello che si chiama peer education, quindi loro stessi si occupano dei ragazzi più giovani e, mentre imparano cose nuove, vengono investiti della figura del maestro e quindi devono insegnare ai ragazzi più giovani. Focus sui trend. È il sogno del marketing parlare a tu per tu con ogni singolo consumatore e coinvolgerlo, conquistarlo. Grazie alle tecnologie digitali e al mondo dei social tutto ciò è sempre più possibile. Oggi allora vi raccontiamo le tecniche e i casi della comunicazione convocativa che, insieme ai brand che la mettono in pratica, fa tendenza. Ne parliamo con Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Buonasera Paolo. Buonasera. Allora, voi parlate di singular call, così definite questa tendenza, ce la riassumi? Sì, il singular call riguarda, come dice la parola stessa, proprio la chiamata individuale, quasi la mobilitazione delle persone che vengono chiamate letteralmente one to one in alcuni casi. Come dicevi tu giustamente, è il sogno di tutti i comunicatori, quello di parlare direttamente a ogni persona. Diciamo che per far in modo che questo succeda è necessario che le aziende mettono a disposizione sia gli strumenti ma anche i contenuti che poi entrano in un meccanismo di risonanza, quindi vengono rilanciati dalle persone. Molti marchi avanzati si stanno ingegnando per avere dei contenuti che valga la pena di trasmettere e che parlino direttamente a ogni singola persona. Iniziamo allora a raccontare qualche caso. Sì, sicuramente Dove è un marchio che da anni lavora sull'autostima delle donne, sulla bellezza autentica, sulla bellezza semplice, sulla bellezza reale, quella in cui ci sono anche dei difetti. Una campagna francese recente, che è stata lanciata proprio quest'anno in occasione della Giornata Mondiale della Donna, è One Beautiful Thought, un bel pensiero. Hanno creato una situazione, una specie di esperimento sociale, come molto spesso fa Dove, in cui c'erano 2 amiche al bar, una serie di telecamere nascoste, e queste 2 amiche iniziano a parlare. Una dice all'altra delle cose tremende, tipo che brutta pelle che hai oggi, sei ingrassata, e via via in un'escalation di apprezzamenti molto molto pesanti. Inevitabile che le persone accanto poi intervenissero dicendo: ma scusa, ma perché tratti così male la tua amica? In realtà quello che si stavano dicendo queste donne erano delle frasi prese dalle riflessioni che molto spesso le donne fanno magari al mattino davanti allo specchio, criticando il proprio aspetto fisico. Diciamo, questo video è diventato virale, ha avuto moltissimi click ed è stato diffuso in tutto il mondo e ha avuto un grandissimo successo, e questa è proprio una chiamata che parte da quello che le donne pensano di se stesse, quindi una singular call che tocca determinate corde molto molto delicate che Dava trattato con grande eleganza e grande leggerezza. E in certi casi la convocazione, il coinvolgimento del singolo diventa effettivo, reale, come il caso che ci racconti ora, Paolo. Esatto, con l'ente del turismo dei Grigioni. Grigioni, una regione della Svizzera, una zona di bellissime montagne, aria incontaminata, cibo buono, eccetera. Nel mese di giugno di quest'anno l'ente del turismo dei Grigioni ha installato all'interno della stazione dei treni di Zurigo un monitor in cui c'era un signore con una bella faccia da montanaro, con una bella barba bianca. Ecco, questo signore chiamava letteralmente le persone che passavano di fronte a questo monitor. In realtà non era un semplice tabellone, un semplice monitor con un'immagine registrata, ma era una diretta. Questa persona invitava i passanti dicendo: ma perché non mi vieni a trovare in montagna? Il monitor stampava anche un biglietto del treno per un piccolo paesino di montagna che si chiama Vrin. Chi voleva quindi poteva fisicamente in quel momento raggiungere il generoso ospite che invitava le persone a salire in montagna. Chiaramente un'installazione che è durata solo un giorno, con un po' di artificio, che però ancora una volta è stata diffusa su YouTube e ha avuto un grandissimo successo. Abbiamo postato il video sulla nostra pagina Facebook per chi volesse vederlo, è veramente molto gustoso, divertente. In altri casi questo coinvolgimento del singolo diventa attivismo. Sì, diventa proprio un'azione reale. Nel mese di giugno la Corte Suprema americana ha sancito che il matrimonio omosessuale non può essere vietato in nessun stato americano, quindi insomma è stata una grande vittoria per la comunità omosessuale. Con l'hashtag Love Wins è iniziato, come dire, un passaparola incredibile. Alcune aziende hanno deciso addirittura di cambiare per un giorno i loghi dei propri siti, dei propri social network, trasformandoli in loghi rainbow, quindi utilizzando i colori della bandiera tipica, caratteristica del Gay Pride. Facebook ha fatto anche di più, dava a tutti la possibilità, con un semplice click, di trasformare la propria immagine in un'immagine arcobaleno. Facebook ha detto che 26 milioni di persone hanno compiuto questa operazione. Un attivismo dei singoli, un appoggio dei singoli a una causa di risonanza internazionale. A presto, alla prossima. Grazie, a presto. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio, come sempre, per questo momento di chiusura, il nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti. Allora, per una volta parliamo di noi, Francesco, meglio, di un evento che hai ideato, progettato e costruito tu. Nasce dal tuo libro Crescita Felice, che abbiamo citato altre volte, un evento che coinvolge anche me. Sì, è un evento importante per noi perché attraverso la prima edizione del Festival della Crescita, che ci sarà a Milano dal 15 al 18 ottobre, quindi da giovedì a domenica, proviamo a coinvolgere 120 ambasciatori della crescita e quindi docenti universitari, giornalisti come te che modereranno i vari convivi e i dialoghi, ma anche imprenditori e anche direi liberi professionisti, cittadini interessati a questa grande sfida della crescita felice, mettendo insieme i contributi di ciascuno. Quindi non un festival in cui si ragionerà in modo teorico e intellettualistico, ma dove si presenteranno i progetti per la crescita del futuro. Ricordiamo l'ispirazione, Francesco, il tuo concetto di crescita felice. Sì, come sappiamo oggi spesso si parla di decrescita felice, cioè un'idea privativa in cui io devo dire che poi la diagnosi è spesso giusta, cioè il modello di crescita che abbiamo negli ultimi 20 anni proposto non è sostenibile per molti motivi, perché l'ambiente molto spesso ne soffre, ma anche le relazioni umane ne soffrono, ma io credo che la terapia sia sbagliata, cioè non si può rispondere a questo modello non sano con un'idea di decrescita. Noi dobbiamo continuare a crescere, però sviluppare le nostre potenzialità, i nostri talenti e le nostre qualità in modo nuovo. Quindi l'idea che intanto il festival sia aperto a tutti, è gratuito, ci sono aziende che ci aiutano a sostenerlo e anche istituzioni, è proprio che ciascuno possa 12 ore al giorno, dalle 9 di mattina alle 9 di sera, venire ad ascoltare e ad assorbire questa energia per una crescita felice. Perché crediamo che uno dei nostri grandi problemi in Italia sia di non avere consapevolezza della nostra forza. Abbiamo realtà, non solo le start-up, di cui per fortuna tutti cominciano a parlare, ma realtà anche di aziende, di professionisti, di cittadini che hanno una straordinaria capacità di guardare al futuro, ma lo fanno un po' nel proprio orticello. Quindi c'è un problema di condividere questi progetti. Quindi il festival, che tra l'altro comincerà ma continuerà per molte edizioni anche in altre città in Italia, ha proprio l'obiettivo di diventare una piattaforma generativa per i talenti italiani. Grazie Francesco, appuntamento giovedì a Milano per il festival, fino a domenica e ovviamente domenica prossima. Grazie a te Maria Luisa e a presto. E grazie anche in regia ad Andrea Roccabella. Essere Avere finisce qui. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.